24 mattino. Se dovessimo metterci a guardare tutte le piccole violazioni che fanno gli italiani, mancato scontrino, pagamenti in nero, piccoli abusi edilizi, così come controlliamo tutto quello che fanno le persone in questi giorni a 201 metri da casa propria, altro che finanza pubblica in dissesto, avremmo ripianato già tutto il debito e avremmo ben più soldi da spendere per emergenze come questa. Simone, tu sei molto stupito da questa cosa della gente in giro. Io abito a Cilia e ti assicuro che c'è un pezzo di verde vicino non recintato e è sempre pieno di gente. Chi sta seduto sulle panchine, chi fa comunella col cane, chi fa finta di fare la passeggiata, la corsa, fatto sta che è sempre pieno di gente. Buongiorno, io sono un autotrasportatore, però ho un piccolo dubbio oggi. Tanti amici che sono fuori dalle filiere di prima necessità, cioè sono dentro nella meccanica, anzi scusate, nella stamperia a caldo. Mi spiegate, visto che oggi i prefetti ha fatto riaprire un sacco di aziende nel Varesotto e anche nella provincia Monza-Brianza, chi andrà a controllare se effettivamente queste persone, queste aziende avranno tutti i kit di protezione, visto che comunque le mascherine si fa fatica a trovarle? Oh, guardi che questo è un ottimo punto, eh. È un ottimo punto. Chi fa i controlli? Come vengono effettuati i controlli? Perché, come sappiamo, le nuove norme prevedono che le aziende possano richiedere ai prefetti di riaprire in deroga, anche se non fanno parte delle filiere autorizzate espressamente, se sono collegate alle filiere autorizzate espressamente oppure per motivi particolari, e i prefetti possono concedere queste deroghe. Poi però nelle aziende va verificato che tutte le cose si svolgano nella maniera giusta. Giusto punto, immagino che i controlli ci saranno e lo voglio ben sperare. Così come, lo diceva bene l'ascoltatore, insomma, sono occhiuti i controlli su chi si muove a 201 metri da casa. Su Acilia, in parte su Roma, su alcune parti del Mezzogiorno, io devo dire la verità, ho l'impressione, allora, posto il discorso generale, che i dati del Ministero dell'Interno ci testimoniano che la disciplina oggettivamente c'è, i controlli sono tanti, sono piuttosto intensi, le persone senza autorizzazione trovate sono una piccola percentuale rispetto al totale dei controllati, siamo intorno, mi pare, al 4%, oscilliamo tra il 3 e il 4% le persone multate. In generale la mia impressione, anche sentendo, vedendo, è che nel centro-sud Italia ci sia una percezione, anche per come la malattia ha colpito, diversa da quella che c'è in questo momento nel nord Italia e in particolare in Lombardia. Sotto questo aspetto le critiche si appuntavano soprattutto su questa accusa ai cittadini lombardi di muoversi troppo. In realtà l'impressione è che i cittadini lombardi siano stati su questo fronte molto attenti, esattamente perché sono stati colpiti e sono stati colpiti abbastanza duramente. Forse in alcuni casi... Scusate se la dico così, per carità, è meglio che ci fermiamo in questa situazione, non abbastanza se, come racconta il quotidiano La Repubblica, pagina 19, questo racconto da Lodi di un ragazzo di tra i 17 e i 24 anni, l'età precisa non viene data, era positivo da qualche giorno al coronavirus e lo sapeva, e ha organizzato a Lodi una festa in casa sua invitando 5 amici, proprio a Lodi, ragazzi, il posto dal quale è iniziato tutto. Loro si sono presentati, la festa è andata avanti fino a quando un vicino ha chiamato la polizia, che ha denunciato il padrone di casa e tutti gli amici, tutti tra i 17 e i 24 anni, per violazione del testo unico delle leggi sanitarie, ragazzi che hanno dichiarato agli agenti di sapere che il padrone di casa era positivo e quindi scientemente si sono ritrovati a casa di questo, presumibilmente, se non lo erano già, si sono infettati e chissà dove hanno portato il virus. Speriamo che adesso restino in isolamento. È la seconda parte di 24 mattino, è martedì 14 aprile. Sono le 7, 23 minuti e 40 secondi ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Posto che, come sempre, ci potete raggiungere al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio e ci trovate anche in diretta su Facebook, sulla pagina Facebook di 24 Mattino. Potete scriverci anche là, potete usarla come sempre anche come punto di contatto, cioè usare Messenger per mandarci dei messaggi, per dirci la vostra, e anche se volete e se vi scappa dare una valutazione sulla trasmissione, perché c'è anche la possibilità di lasciare le recensioni. Le prime pagine dei quotidiani, dunque. Iniziamo come sempre da qua con La Stampa, che dedica il l'apertura alla cosiddetta fase 2, un made in Italy, Conte verso la riapertura. Il Corriere della Sera, che invece decide di concentrarsi su come le regioni si stiano differenziando l'una dall'altra, ordinanze e regole diverse, il governo prepara la ripresa a scaglioni per età, e il titolo è Regioni, riaperture, fai da te. La Repubblica sceglie la scuola nel giorno nel quale veniamo, insomma, dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha deciso di riaprire le scuole a partire dall'11 maggio, almeno parzialmente, almeno a scaglioni. La scuola è finita, ci dice invece La Repubblica. Per quanto riguarda l'Italia, ripresa a settembre, ci vogliono almeno 3 miliardi per garantire la sicurezza. Prove di ripartenza, ma il virus resiste, il titolo del quotidiano nazionale. Il Messaggero invece sceglie la questione delle app, spostamenti regolati da un'app, il piano per sostituire l'autocertificazione cartacea. Finalmente ci viene da dire, forse ci siamo, invece di avere l'autocertificazione con scritti tutti i nostri dati, forse arriveremo ad avere un'app. A maggio prime riaperture per fabbriche e ristoranti. Un po' più, per così dire, politici, d'inchiesta, sono i titoli di altri quotidiani, come il Fatto Quotidiano, che picchia giù duro sull'ospedale realizzato in fiera da Regione Lombardia. L'ospedale in fiera, un bluff per quattro gatti, ci arriveremo tra un attimo, con i contagi che tornano a crescere. Il Giornale, che invece apre sul rischio vacanze, l'Europa che dice, von der Leyen che dice non prenotate le ferie, e il mondo del turismo che è in rivolta e dice così ci uccidete. Si parla anche del campionato di calcio, gli scienziati che dicono che il calcio non deve ripartire, c'è polemica anche su questo. La Verità ci racconta che Conte è stato sfiduciato da 2 italiani su 3, un sondaggio sancisce il fallimento del premier agli occhi dei cittadini che bocciano anche l'Unione Europea. Libero invece sul piano del governo per riaprire ogni attività. Fino al 2021 saremo semi-reclusi. Oggi tocca alle cartolerie, poi ad aziende agricole e industriali. Il 18 maggio riecco i bar, il 25 i parrucchieri. A settembre si torna a scuola, a Natale al cinema, stadi pieni solo a marzo. Questo è il cronoprogramma indicato da Libero. Il Manifesto dedica invece l'apertura alla questione dei migranti, perché ci sono dei barconi, delle barche in mezzo al mare, non abbiamo né cibo né acqua, stiamo morendo, all'appello lanciato da una giovane naufraga incinta, lei e altri 46 alla fine sono stati salvati da una ONG basca, 178 arrivano sui barchini in Sicilia, si salva chi può, è il titolo del Manifesto. Il Sole 24 Ore. Si dedica alla parte fiscale di questa emergenza e alle norme varate. IVA, ecco come il fisco spiega la proroga, e sul decreto legge di aprile fa sapere il Sole, saranno rinviate la sugar e la plastic tax. In settimana ci sarà il via, partiranno le richieste per i prestiti garantiti da SACE. E anche qua c'è il tema delle regioni, il verso la ripresa fase 2, alcune filiere pronte al via, ma le regioni vanno avanti in ordine sparso. Sul calcio invece si concentra la Gazzetta dello Sport, ripartenza e scontro con appunto Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice non darei l'ok. Veniamo direi subito alla questione dell'ospedale in fiera, che tanto fa discutere. Qua vi presento 2 articoli di taglio decisamente diverso. Il primo è sul Fatto Quotidiano a pagina 3, il secondo è sul Giornale a pagina 14. Questo famoso ospedale in fiera, come abbiamo ben raccontato, realizzato a tempo di record dalla Regione Lombardia con i soldi delle donazioni dei privati, e sul quale il Fatto Quotidiano è molto critico e con Marco Palombi a pagina 3 ci parla di quello che definisce nel titolo l'ospedale nel deserto alla Fiera di Milano, tanto rumore per nulla. Al momento, racconta, sono una dozzina gli ospiti della grande struttura di terapia intensiva che la Regione Lombardia ha voluto costruire alla Fiera di Milano, affidandone la gestione al Policlinico. Ora però che a parità di ricoveri ospedalieri da Covid-19 la pressione sulle terapie intensive, peraltro raddoppiate da inizio marzo, diminuisce, è lecito farsi qualche domanda sul mega investimento fatto da Attilio Fontana e soci. Funziona o è l'ennesima cattedrale nel deserto? Il dubbio, come vedremo, è più che lecito. Ad oggi, come detto, sono una dozzina i pazienti assistiti in fiera da una cinquantina di persone che turnano su 24 ore. Impossibile far crescere i ricoverati senza aumentare decisamente il personale, che però scarseggia in tutta Italia e in particolare al nord. Poi c'è la questione dei posti letto. Dovevano essere 600, ora l'obiettivo è 205, anche se ormai è chiaro a tutti, anche in fiera, che a quella cifra non si arriverà. Al momento sono stati completati 53 posti letto, un secondo lotto da 104 in via di costruzione, sarà pronto, se va bene, tra una o due settimane. Gli ultimi 48 posti letto semplicemente non verranno mai costruiti. Però, come vedete, qua le ricostruzioni divergono, insomma, da addirittura sui numeri, su quanti numeri di posti letto sono pronti, perché se prendete il giornale a pagina 14 con un pezzo di Alberto Giannoni, gufate e insulti, così la sinistra infanga l'ospedale dei record, si parte già in apertura con dei numeri che sono diversi. Altri 104 posti consegnati sono gli stessi che sul Fatto Quotidiano venivano indicati come dei posti che sarebbero stati consegnati forse tra una, forse tra due settimane. E ora avanti con i collaudi. Anche il secondo piano dell'ospedale in fiera è stato terminato e oggi sono 157 i posti letto allestiti in totale. Presto si arriverà ai complessivi 208, assicurano i promotori. Il pezzo Alberto Giannoni sul giornale, che si concentra soprattutto un po' su come, insomma, è stato trattato dal centro-sinistra questo ospedale. Il Manifesto è arrivato a scrivere nessuna traccia dell'hub annunciato da Fontana, il PD, dovendo criticare ogni giorno la regione, ha finito per oscillare dicendo tutto e il suo contrario, inseguendo prima l'ipotesi di Legnano, che è un ospedale del quale si era parlato, però ormai abbandonato da anni, per il quale ci sarebbero voluti dei lavori di ristrutturazione, con il capogruppo Fabio Pizzul, che liquida la cosa come un progetto settoriale. L'eurodeputato Francesco Maiorino prima spiega che non c'era altro tempo da aspettare per l'ospedale in fiera, poi profetizza che avrebbe richiesto tempi più lunghi e poi lo critica. Come capite, insomma, non ci si muove da un po' da uno schema destra-sinistra anche sull'ospedale in fiera. Milano che non guarisce, ma non guarisce perché? Insomma, il quotidiano La Repubblica prova a spiegarlo a pagina 8 e ci racconta, insomma, non tanto del ragionamento di quanti milanesi sono in giro e, come vedete, torniamo là, ma quanti milanesi infettano le persone che sono in casa con loro, ed è questo il grande tema. Lo sottolinea bene, discesa lontana, altri 81 morti in 24 ore, tutta colpa dei contagi in casa. È Alessia Gaglione che firma il pezzo a pagina 8, nel quale riporta non pareri suoi, ma pareri scientifici. Perché se da una parte abbiamo l'assessore Gallera che dice a Milano c'è ancora troppa gente in strada, e Beppe Sala che dall'altra parte dice rifiuto categoricamente la lettura per la quale i milanesi non si stiano comportando in maniera diligente, e ci dicono invece, come lo fa lo stesso Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, la situazione non è del tutto sotto controllo, perché possono esserci diverse catene di trasmissione del contagio e luoghi dove le misure non vengono completamente rispettate. Famiglie? Condomini? Questi punti di domanda vanno sommati al fatto che stiamo facendo più tamponi. E non è un caso se Carlo Lavecchia, epidemiologo della Statale, dice Milano è stata chiusa un mese fa. Il fatto che ci siano ancora così tanti contagi riflette una serie di contatti in famiglia, un gran numero di infettati, magari con sintomi lievi, che esplode adesso. Nulla a che fare con l'eccesso di passeggiate. Una pausa. Mattino. Credo sia sbagliato il messaggio che sta passando, che gli italiani sono bravi e che stanno tutti a casa. Basta vedere quello che è successo sul raccordo Venerdì Santo o sulla Prenestina, Casilina, Aurelia, insomma, Pontina, tutte le strade consolari in uscita da Roma. Tutta questa gente, perché stava lì? Ma se io vado in macchina da sola, vado, mi faccio un giro perché mi sfogo, ma chi contagio? Ma chi contagio? Le comunità chiuse stanno morendo, i lager dell'RSA, dove si sono mangiati soldi a scapito di persone, e gente che lavora senza dispositivi. Ma gli infermieri e i medici che muoiono è perché vanno troppo in giro in macchina o perché sono chiusi negli ospedali? Stiamo veramente delirando. Io, vivendo da solo, ieri a Pasquetta, subito dopo pranzo alle 14, ho fatto una passeggiata da solo, le strade erano deserte, e ero l'unico in giro, e una pattuglia delle forze dell'ordine, della Guardia di Finanza, mi ha fermato, controllato, e mi voleva contestare che ero a 500 metri da casa, perché, cioè, qui veramente, ragazzi, stiamo impazzendo. Oh, Peter, Bescapè, ma lo recuperiamo quell'audio della D'Urso di ieri, quello cos'è, pomeriggio 5, i controlli dall'elicottero. Siamo sull'elicottero della Guardia di Finanza, che è proprio lì a fare cosa? A controllare. Ecco, Barbara, allora l'elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia, ma lui ha aumentato il passo e sta scappando, quindi ora lo stiamo inseguendo, non so se si può vedere, i finanzieri hanno iniziato a correre perché lui si sta allontanando tra le case, eccolo lì, vedi Barbara, sta... Sì, lo sto vedendo. Andrea inquadra e giù ci sono altri poliziotti che stanno bloccando altre persone. Cioè, un inseguimento all'americana praticamente per uno che stava da solo sulla spiaggia. Vabbè. Terribile, l'indisciplinato. Ripartire come? Ripartire in quali luoghi? In che dimensione? Qua c'è da segnalare, e peschiamo dal quotidiano La Repubblica e dal Sole 24 Ore, no? I pezzi che hanno a che fare con le regioni. Repubblica, pagina 4, negozi, divieti e passeggiate, l'Italia diventa un puzzle, il Veneto osa più di tutti. Insomma, qua il tema è esattamente come si stanno muovendo le singole regioni. Per fortuna, per così dire, non ci si può muovere, scusate, rumore di quotidiani, naturalmente, di pagine che vengono strappate e separate, diciamo, dal corpo del giornale per tenerle meglio sotto mano. Le regioni, per fortuna non ci si può muovere da una regione all'altra, perché se no non si saprebbe che cosa fare in ogni singola regione. Iniziamo da qua, dalla stretta della Lombardia. Il governatore Fontana dice no alla riapertura di librerie e cartolerie, e quindi declina in maniera diversa, in maniera più restrittiva, cosa che tra l'altro era consentita, le direttive che arrivano dal governo. In Lombardia libri, quaderni, ma anche fiori e piante si potranno comprare solo nella grande distribuzione oppure farseli consegnare a casa. Riaprono i negozi di abbigliamento per bambini, con rigide misure di distanziamento, guanti e mascherine che restano obbligatori al di fuori della propria abitazione. Pugno ancora più duro in Piemonte e Trentino. Piemonte no alla riapertura delle cartolerie e no ai negozi di abbigliamento per bambini. Anche gli studi professionali chiusi fino al 3 maggio, attività motoria sì, ma entro i 200 metri da casa. Il Veneto cambia invece le norme e le alleggerisce. È un atto di fiducia verso i veneti, dice Luca Zaia, toglie il limite dei 200 metri per le passeggiate e dice basta che non diventino 4 chilometri. La concessione del picnic negli spazi aperti privati, ma solo con i familiari conviventi. Il 25 aprile e il 1 maggio però non è il tanto atteso permesso di andare nelle seconde case, bisogna stare dove si è residenti. Il distanziamento previsto viene aumentato a 2 metri, mascherina obbligatoria fuori casa anche per fare jogging, e concesso ai papà di assistere ai party. Party non inteso come feste, party inteso come appunto il parto della moglie. Ripartenza sì, ma con le dovute misure di sicurezza nel Lazio. Le librerie riapriranno dal 20 in questo caso. In Liguria e Friuli Venezia Giulia si dà il via libera alla manutenzione degli stabilimenti balneari. E adesso poi vi recupererò, perché c'è anche qualche regione che ha aperto, e adesso me lo ricorderò. Ah, eccolo qua, Campania. Guarda, la Campania è stupenda, perché non vengono riaperte librerie e cartolerie, sì soltanto ai negozi di abbigliamento per bambini, ma solamente due mattine a settimana, non si sa perché, non si sa esattamente su quale criterio, però i negozi di abbigliamento per bambini riaprono, ma riaprono solamente due mattine a settimana. Insomma, la Toscana vara una distanza di sicurezza aumentata fino a 1,80 metri. Chissà come facciamo a misurarla la distanza di 1,8 metri tra una persona e l'altra, e soprattutto come farà un poliziotto, un tutore delle forze dell'ordine a verificare che io stia a distanza di 1,8 metri e non siano invece 1,7 o 1,6 metri. Vabbè, nel dubbio stiamo distanti e non ci avviciniamo. Più in generale e più seriamente, poi insomma, ecco qua, su questo trovate anche la pagina del Sole 24 Ore, che è pagina 7, con Marzio Bartoloni che dedica un lungo pezzo a tutto questo, anche al fatto che ci siano delle riaperture possibili per alcune imprese già entro fine aprile, con il 4 maggio che potrebbero invece riaprire una serie di attività commerciali con ingressi scaglionati, anche i cittadini potrebbero tornare a circolare con la mascherina. Si va verso una fase 3 con la vacanza al mare, e però anche qua gli stabilimenti balneari dovranno prendere delle particolari misure di sicurezza, e soprattutto bisognerà far sì, e su questo il governo sta lavorando, far sì che gli italiani abbiano qualche soldo per potersi permettere delle vacanze, e che queste vacanze se le possano permettere in Italia. Si ragiona un credito d'imposta, eventualmente del denaro cash direttamente, su questo si sta vedendo. Ci arriveremo tra un attimo alla questione del turismo, perché su questo fronte si è innestata anche una polemica con l'Europa. E però prima vi voglio portare a pagina 5 del Messaggero, perché c'è un lungo pezzo di Luca Ricolfi, del sociologo Luca Ricolfi, che pone una serie di questioni che hanno a che fare con le certezze che mancano, e infila una serie di domande, sono 7, che a mio personalissimo giudizio sono delle domande che meritano una risposta relativamente rapida. Quante maschere? Perché sono elementi sui quali si è fatta una grande confusione e sulla quale, ripeto, c'è bisogno di chiarezza. Quante mascherine al giorno al momento sono in grado di fornire le farmacie e le altre strutture sanitarie? E uno, perché sulle mascherine poco sappiamo. Quanti tamponi al giorno al momento è in grado di effettuare la sanità? Qua Ricolfi mette pubblica, ci aggiungo io, anche quella privata. Insomma, e quanto si sta sfruttando la sanità privata per fare i tamponi, perché su questo anche ci sono molti dubbi, ci sono molti laboratori che si sono dichiarati disponibili e ai quali lo Stato ha risposto no, grazie, facciamo da soli. Esiste una data a partire dalla quale potremo effettuare liberamente tamponi e test sierologici certificati con la semplice prescrizione di un medico? Abbiamo un'app o un software per il tracciamento dei contatti, e quante persone sono state reclutate a questo scopo, oltre ai 74 esperti? Quanti posti sono attualmente disponibili per la quarantena di chi non può farla a casa? In quale data partirà l'indagine campionaria sulla diffusione del Covid-19? In quale data saranno disponibili i risultati? Sono le promesse e le premesse necessarie. Poi c'è un'ultima domanda che ha a che fare con i numeri. È una domanda che serve all'informazione, serve anche ovviamente al mondo della ricerca. Se possono essere desecretati i microdati sui casi positivi, decessi, gli ospedalizzati e in particolare quelli in terapia intensiva. Però insomma, mi sembrano delle premesse quasi necessarie, quasi fondamentali per ragionare sulla fase 2, ed è quello che dicevamo, cioè l'impressione che al momento manchi un po' una strategia, cioè una strategia che non vada di due settimane in due settimane, ma una strategia nella quale si dica: ok, al verificarsi di questo evento, con la disponibilità di questi test, di questi tamponi, di queste, di questi dispositivi di protezione personale, ecco, a quel punto noi saremo in grado di riaprire questo, questo e questo. Cioè non mi devi dare una data, mi devi dire al verificarsi di determinate condizioni che cosa riparte. Traffico. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Mattino. Riguardo le RSA, non potevano con i propri soldi attrezzarsi prima di questa pandemia con le mascherine che io compro normalmente in farmacia, cioè, non potevano farlo anche loro senza aspettare le varie regioni, comuni, lo Stato? Simone, per lavoro ho girato tutti i giorni del fine settimana, sabato, domenica e lunedì non c'era in giro un'anima viva, ma giovedì e venerdì c'era in giro il mondo. Posto naturalmente che gli effetti di questo mondo in giro il giovedì e il venerdì, se li vedremo tra due settimane, 20 giorni. Insomma, quello che vediamo oggi è il risultato di quello che è successo prima. Ricordiamocelo sempre. Ripartire come? Chi riparte e come soprattutto? Al di là delle regioni c'è da dare uno sguardo a quello che succede in Europa, a come si stanno muovendo gli altri. La stampa, pagina 7, ci racconta di questa Europa in ordine sparso, perché oggi è il giorno nel quale l'Austria riapre i negozi. Non è la fine totale del lockdown. Potranno riaprire piccoli esercizi, self-service e vivai. Dal 1 maggio toccherà ai negozi più grandi e ai parrucchieri. Per bar e ristoranti si dovrebbe aspettare metà maggio, così come per il turismo, mentre gli eventi restano vietati fino a luglio. In Germania le restrizioni per ora resteranno in vigore fino al 19 aprile, ma è iniziata la discussione. E poi ci sono la Francia e la Spagna. La ricetta Macron: un altro mese di chiusura totale, poi scuole aperte. Ieri l'intervento del presidente francese in televisione, nel suo discorso alla Nazione, che fa sapere, dice: non eravamo preparati a questa pandemia. Molti analisti scrivono che è stato uno dei migliori discorsi di Emmanuel Macron, il quale dice tra le altre cose: dovremo imparare a convivere con questo virus, il confinamento stretto continuerà in tutta la Francia fino all'11 maggio e dopo il ritorno a una vita normale sarà solo progressivo. E poi c'è l'azzardo di Pedro Sanchez, del premier spagnolo. E qual è questo azzardo? L'azzardo è la riapertura delle fabbriche. C'è sempre sulla stampa, siamo a pagina 7, il pezzo lo firma Francesco Olivo. Riaprire industrie e cantieri pur senza togliere i divieti ai cittadini di uscire di casa fino al 10 maggio e lasciando chiusi i negozi. Ricordatevi questo però, che la Spagna è in questo momento un paese che ha contato ieri 570 morti e 3.400 nuovi positivi. È nella condizione nella quale era l'Italia sostanzialmente una decina di giorni fa. I primi dati indicano che nella capitale Madrid 300.000 persone sono tornate al lavoro, l'edilizia però ripartirà soltanto oggi. La metropolitana non è stata presa d'assalto, più 34% di passeggeri. Alle stazioni e alle fermate dei mezzi pubblici sono state consegnate e qua occhio, diverse migliaia di mascherine per i passeggeri. Gli imprenditori si lamentano del fatto che debbano essere loro a sostenere i costi delle misure di sicurezza imposte dal governo, ma durante il primo giorno non si sono registrati particolari problemi. Vedremo se questo azzardo spagnolo funzionerà. C'è, come si diceva, Macron che indica la fase 2, poi la riapertura delle scuole, appunto, e c'è l'Italia che invece, come titola in apertura del quotidiano La Repubblica, programma di far ripartire le scuole a settembre. Partire a settembre e va bene, insomma, anche se la differenza coi francesi si fa sentire, posto che ovviamente in Francia non è che riaprirà tutto, non riapriranno tutte le scuole, riapriranno solamente in parte. Ma come ripartire? Sole 24 ore, pagina 17, Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, ci ricorda come queste scuole riapriranno con una serie di problemi aperti, e sono dei problemi nuovi collegati ai problemi vecchi. Al di là del fatto che dopo l'estate potrebbero esserci nuovi focolai che in alcune aree potrebbero costringere a chiusura a scacchiera, e se anche ciò non avvenisse, il vero problema è che gli edifici, l'organizzazione della giornata scolastica, la composizione delle classi nella maggior parte degli istituti italiani non sembrano in grado di garantire il rispetto delle misure precauzionali. Prendete già solo l'arrivo a scuola. Nel tragitto da casa molti studenti affollano i mezzi pubblici. Davanti a scuola si creano assembramenti fra i più grandi e forse ancora di più fra i piccoli accalcati sui marciapiedi. Spesso poi l'accesso all'edificio avviene attraverso un'unica entrata. Sulle scale nei corridoi non si tiene la distanza. E poi si entra in classe, dove si trascorrono molte ore. In Italia la numerosità media di una classe di scuola primaria è di 19 alunni, alle medie di 21, alle superiori di 22. Le norme in vigore dal 75 prevedono che la superficie netta per studente prevista per le attività didattiche vari da 1,80 metri quadri dalle materne alle medie fino a 1,96 metri quadri per le superiori. Ed è una distanza che non corrisponde alle nuove regole alle quali bisogna sottostare in presenza di Covid-19. Come vedete, il problema della riapertura è più complesso di quanto non sembri. Così come sarà difficile la riapertura del settore turistico, insomma, lo sapete bene. Se ci si mette anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, insomma, stiamo freschi. Lo racconta bene sempre il Sole 24 Ore, a pagina 11. Sono le parole di Ursula von der Leyen che hanno mandato in bestia gli operatori del settore turistico. Non prenotate ancora le vacanze estive, lo scrive il pezzo, lo firma Enrico Netti, una frase secca quella pronunciata dalla von der Leyen, presidente della Commissione europea, in un'intervista al quotidiano Bild am Sonntag pubblicata l'altro ieri. Il presidente europeo ha parlato a tutto tondo anche di un futuro vaccino, perché gli anziani dovranno ancora limitare per molto tempo i contatti sociali nelle prossime vacanze. E però, appunto, anche di turismo al momento nessuno può fare previsioni affidabili per luglio e agosto. Consiglio di aspettare con questi piani. Un consiglio che preoccupa appunto il mondo dell'industria dell'ospitalità. Il presidente dei Federalberghi, Bernabò Bocca, dice: siamo rimasti allibiti leggendo queste parole. Forse non sa che l'Italia vive di turismo e circa 3 milioni di italiani tra occupati diretti e indotto lavorano nel settore. Io sinceramente, Bernabò Bocca ha perfettamente ragione, il settore del turismo ha perfettamente ragione. Diciamo che secondo me le parole di Ursula von der Leyen, per così dire, cadono in una situazione nella quale in realtà presumibilmente molti italiani stanno già aspettando. Insomma, quelli che hanno prenotato le ferie sono molto pochi. Però, insomma, von der Leyen dice aspettate un po'. E qua si innesta un po' quello che è l'elemento sul quale sta ragionando l'esecutivo, insomma, è l'ipotesi di favorire, di incentivare le vacanze degli italiani in Italia. Con cosa? Con un credito d'imposta oppure con del denaro cash direttamente sul conto corrente? Certamente sono misure che oggettivamente costano parecchio. Che cosa ancora dai giornali? Sì, c'è tutta la partita economica. C'è tutta la partita economica. Qua fatemi pescare dal... giornale. Non è male questo pezzo di Antonio Signorini sul MES, il meccanismo europeo di stabilità, tanto criticato, al quale il governo non vuole fare ricorso. Perché? Perché chiaramente c'è una questione politica. Nonostante il MES, il meccanismo europeo di stabilità, cioè si sia raggiunto un accordo in Europa per il quale si può avere un prestito fino al 2% del prodotto interno lordo a tassi piuttosto bassi, con la sola condizionalità di utilizzarlo per questioni sanitarie. Scrive Antonio Signorini: faremo molto deficit, ma niente ricorso al MES, assicurato ieri il viceministro dell'economia Antonio Misiani. Confermata quindi l'intenzione di non utilizzare il fondo salva stati nella nuova versione decisa dall'Eurogruppo, un prestito senza condizioni se non quella della destinazione delle risorse. La novità è che questi finanziamenti saranno sostituiti da un rosso di bilancio ancora più pronunciato rispetto agli annunci. Deficit che non potrà che essere finanziato con l'emissione di titoli di debito pubblico italiani, che hanno a loro volta un costo in termini di rendimenti da pagare. Insomma, il gioco vale veramente la candela? A chiudere, ultimo elemento, avevamo lasciato un po' in Baviera, ve lo ricordate, Rama X, il re di Thailandia, in autoisolamento con un'ottantina di concubine. Ebbene, sta facendo imbestialire i tedeschi, perché praticamente si sta muovendo un po' in tutta la Germania, va in visite turistiche nelle città. La compagnia di bandiera Thai Airways l'ha fatto volare da Zurigo a Bangkok, nonostante abbia fermato tutti i voli per i civili. E a questo punto si chiede, insomma, a questo pittoresco personaggio, celebre anche per aver nominato ufficiale dell'esercito thailandese il suo cagnolino Fufu, di un po', insomma, levarsi dalle scatole. GR, ci ritroviamo subito dopo.